che tornamenti intenzionati dalla tenerezza. Già capirà che l'amicizia è la ricchezza più immensa. Sì, lo so, la tua è una razza, ma cosa metti tacchi se a metà serata giri in scalza? Mi rimbalza come le pare che mi chiudono in sostanza in sta stanza. E chi se ne del resto del mondo? Do tutto me stesso e so che non cambierò. Per vivere poi non mi serve l'iPhone. Ah, a me basta life on. Esco e vedo il mondo che va in malora. Sognare ad occhi aperti a paga ed è gratis per ora. Ma ora mi incanto d'incanto, intanto mi schianto. E chi se ne non basta allora. Ho fatto un sogno contorto, un incidente contorto. Vedo il mondo distorto, guardando distorto. Dagli altri mi sono sempre distinto. Mi viene distinto come i gol distinco. E dammi un kiss e poi chi se ne. Non farla miss, fai il bis e chi se ne. Ma sì, fai così dai chi se ne. Ehi, guardami, sfiorami, kiss, chi se ne. Chi se ne. E dammi un kiss e poi chi se ne. Non farla miss, fai il bis e chi se ne. Ma sì, alla fine chi se ne. Ehi, guardami, sfiorami, kiss, chi se ne. Chi se ne. Chi se ne è uno stile di vita. Sto meno male che non è finita. È un po' tipo Stica, che si dice a Roma, ma non vale per tutto anche se funziona. Sprona, non protestare, lasciare andare, lasciar fare, parlare, farsi scivolare. Vivi e lascia vivere e respirare. Se tutti fossero così sarebbe poco male. Poche scale da scalare e meno pare da affrontare. Non litigare né criticare. Se una sorta di paradiso mentale che non può esistere, non mi sento di insistere a sognare. Che poi se non si avvera ci sto male. Tanto vale chi se ne. Penso che per star bene non dovremmo neanche esistere. E dammi un kiss e poi chi se ne. Non farla miss, fai il bis e chi se ne. Ma sì, fai così dai chi se ne. Ehi, guardami, sfiorami, kiss, chi se ne. Chi se ne. E dammi un kiss e poi chi se ne. Non farla miss, fai il bis e chi se ne. Ma sì, alla fine chi se ne. Ehi, guardami, sfiorami, kiss, chi se ne. Chi se ne. Sì, ero no hero. Gira e rigira, ci si ribecca in giro. Girovagando nelle strade c'è gente che cade. Si rialza solo se non si fa troppo male. Anagramma di gratis stragi, quelle che avvengono se non ci danno agi. Ma chi in Italia sono tutti un po' massi, tipo chi se ne. E ti volevo proprio qui, e qui arrivo al punto. Con quel fare l'obiettivo, io non l'ho mai raggiunto. Me ne son sempre sbattuto. E solo in Italia la gente è inerme ma col culo fottuto. E se ascolti sto pezzo qui, la sensazione a quattro lettere ti agiti in gara. Che poi alla fine se ci pensi, io non vuol dire un cazzo, ma ci stava.